Va bene, allora buonasera e grazie innanzitutto appunto, a tutte le presenti, a tutti i presenti, grazie a Polveriera che per la seconda volta, se non sbaglio, ci offre appunto, con cui appunto abbiamo il piacere di ospitare un evento in memoria di Hassan Ati al-Nassar. Mi ricordo, se non sbaglio, che già nel 2018 con l'edizione Ensemble Affluenti del Labirinto, che è l'ultima opera di Hassan Ati al-Nassar, avevamo ricordato Hassan, avevamo presentato l'edizione ensemble del Labirinto qua in Polveriera e ci piace appunto ricordare Hassan in questo luogo perché Polveriera e anche alcune delle persone che hanno attraversato Polveriera negli anni sono i luoghi e le persone che hanno conosciuto, in qualche modo che hanno anche sostenuto Hassan, almeno insomma nei vari anni, nelle varie vicende, nelle sue varie vicende d'esilio fiorentino. E in cui appunto, come ho provato un po' a scrivere anche nella prefazione di questa raccolta di opere complete che presentiamo questa sera, Hassan Ati al-Nassar, poeta fuggito nel 79, molto probabilmente nel 79, dall'Iraq in quanto oppositore al neonato regime di Saddam Hussein, che ha vissuto per più di 30 anni in Italia, in particolare a Firenze, che ha scritto sia in arabo che in italiano, portando molto probabilmente anche dei contributi importanti, forse in qualche modo anche fondamentali, non soltanto alla poesia, alla letteratura, alla cultura italiana, ma anche alla lingua italiana. Poi vedremo magari anche come, in che modo. E nella prefazione ho provato a chiamare, diciamo così, non a definire, a pensare, diciamo, a immaginare la vicenda di Hassan come quella di uno e infiniti esili, ovvero il fatto che questo poeta esule non è stato, secondo me, io credo, esiliato una sola volta da un regime dittatoriale, ma è stato esiliato altre e infinite volte da, diciamo, i contesti storici, sociali, politici, culturali in cui si è trovato a vivere in esilio qua in Italia e a Firenze in particolare in più di 30 anni, tant'è che quasi nessuno, anche in questa città, salvo appunto le persone che hanno accolto Hassan in spazi come Polveriera, ad esempio, quasi nessuno in questa città sa o sapeva, anche quando Hassan era ancora vivo, che avevamo qua a Firenze uno dei poeti d'esilio e uno dei cosiddetti poeti transnazionali. Cosa sono i poeti transnazionali? Questa parola apparentemente strana, in realtà sono una cosa molto semplice. Sono quei poeti o quegli scrittori che, arrivati in Italia da altri paesi o da altri continenti, hanno acquisito l'italiano come la loro lingua principale di scrittura o una delle loro lingue principali di scrittura. Chiaramente trasformando la lingua italiana e la scrittura in italiano a partire dall'incontro fra la lingua italiana, l'italiano, e il retroterra storico, culturale, linguistico dei loro paesi di origine. Hassan Ati al-Nassar era già considerato, anche negli ultimi anni della sua vita, quando era ancora in vita e operante come scrittore, come poeta, era già considerato anche in alcuni studi accademici che già c'erano all'epoca come uno dei poeti transnazionali in italiano fra i più importanti, fra i più significativi che c'erano stati in Italia, che c'erano e ci sono stati in Italia in questi ultimi 30 anni, in questi ultimi decenni. Ma di tutto questo, salvo appunto poche persone, pochi luoghi, a Firenze, per non dire, diciamo, in senso più ampio, in Italia, nessuno o quasi nessuno sapeva. Hassan è stato veramente esiliato infinite volte, non soltanto dal regime di Saddam Hussein e dallo Stato iracheno dell'epoca, ma anche appunto dal contesto storico, sociale e culturale in cui a Firenze, in Italia, per più di 30 anni si è trovato a vivere, in cui si è trovato a scrivere. Quindi, non stasera, diciamo a fine dicembre del 2022, ricorre appunto il quinto anniversario della scomparsa di Hassan, che è morto, come dicevamo poco fa, la notte di Natale del 2017 in una clinica dell'Impruneta. E quest'anno ricorre appunto il quinto anniversario. L'abbiamo già ricordato varie volte in questi anni, qui in Polveriera, al Circolo Arci di San Nicolò, anche ad esempio in radio, su Radio Wombat, su PoiUIT, con Mario abbiamo fatto più di una puntata anche in memoria di Hassan, leggendo poesie e testi di Hassan e leggendo poesie dedicate ad Hassan. In questa occasione del quinto anniversario della scomparsa di Hassan Ati al-Nassar abbiamo un motivo in più, credo bello e importante, per ricordarlo e per festeggiarlo, diciamo così. Ovvero, eccola qua, questa che è la prima fino a questo momento, almeno, magari chissà, forse non l'ultima, speriamo che ci siano anche nuove, prossime nuove edizioni. è la prima raccolta di opere complete di Hassan Atiha al-Nassar, che è appena uscita, proprio in questo dicembre del 2022, non in questo caso per la collana di affluenti con cui avevamo già pubblicato la nuova edizione del Labirinto dell'ultima opera di Hassan. È uscita sempre con Ensemble, con Edizione Ensemble, la casa editrice di Roma con cui io e Marco, eccolo qua, Marco Incardona, curiamo appunto il progetto e la collana editoriale di Affluenti. Ma è uscita questa Poesie 1989-2016 di Hassan Atiha al-Nassar per appunto la collana di Erranze, e che è una collana un po' sorella, diciamo sorella gemella se vogliamo, o almeno sorella di Affluenti, perché appunto è una collana diretta da un poeta esule albanese che si chiama Gesim Haidari, che era oltre che un collaboratore anche un carissimo amico di Hassan. Io l'ho conosciuto Haidari come autore proprio grazie ad Hassan, lui portava spesso, diciamo, nella borsetta quando andava in giro per Firenze, portava spesso un'antologia di poesia della migrazione in cui erano pubblicati sia lui che Haidari. E è una collana che appunto raccoglie varie erranze poetiche, varie erranze esistenziali. Si occupa di pubblicare appunto soprattutto in particolare autori, poeti, esuli, poeti che sono stati in qualche modo perseguitati o censurati nei loro paesi d'origine, che sono stati costretti a fuggire, a volte magari che sono morti giovani, giovanissimi durante una guerra, e magari hanno pubblicato una sola opera in tutta la loro vita e vengono appunto poi raccolti, antologizzati, storicizzati, come si dice in Italia, insomma, per questa collana. E Haidari è stato proprio colui grazie al quale, questo poeta esule albanese Gesim Haidari è stato colui grazie al quale abbiamo potuto pubblicare questa prima raccolta di opere complete di Hassan Atiha al-Nassar, alla quale Haidari ha creduto molto e per la quale che ha voluto fortemente appunto nella sua collana. Il libro raccoglie praticamente tutta la produzione poetica di Hassan, appunto dall'89 fino al 2016. Hassan arriva in Italia nei primi anni 80, ma inizia a scrivere in modo, diciamo, più compiuto, più organico, più elaborato anche in italiano a partire dalla fine degli anni 80. Raccoglie l'intera produzione poetica di Hassan Atiha al-Nassar, e oltre a tutte le poesie di Hassan, in questa prima raccolta di opere complete abbiamo inserito anche alcuni estratti dalla tesi di laurea di Hassan, che è stata pubblicata nel 96 dalla CUSL di Milano, tesi di laurea che si intitola La letteratura dell'esilio, il caso iracheno, in cui Hassan fa un excursus, diciamo, di tutta la letteratura esule, tutta la letteratura migrante irachena degli ultimi decenni. E in particolare da questa tesi di laurea di Hassan abbiamo inserito in questa raccolta di opere complete un capitolo autobiografico, di cui magari leggeremo adesso qualche estratto anche per far capire un po' chi è stato Hassan Atiha al-Nassar, in cui appunto Hassan racconta di come, quando e perché è fuggito dall'Iraq a fine degli anni 70, e racconta anche quella che è stata, diciamo, il suo arrivo in Europa, il suo arrivo in Italia e quelli che sono stati i suoi primi anni da immigrato, da profugo, da esule qua nel nostro paese. Abbiamo inserito anche un paragrafo in cui Hassan parla della nascita del verso libero nella tradizione della poesia araba contemporanea. Hassan era uno di quegli autori arabi contemporanei che appunto aveva, diciamo così, rotto con la tradizione araba della Qasida. La Qasida, sperando che la mia pronuncia sia corretta, non essendo, diciamo, un molto esperto di lingua araba, ma la Qasida è la forma classica appunto della poesia araba su cui si è costruita la struttura della poesia araba e medio orientale per secoli, e Hassan era uno di quegli autori appunto arabi contemporanei che rompeva, diciamo così, con la forma classica della Qasida in favore del verso libero. E in questo paragrafo appunto Hassan spiega molto bene come nasce storicamente il verso libero all'interno della storia e della tradizione della poesia araba contemporanea. Un altro estratto dalla tesi di laurea di Hassan, La letteratura dell'esilio, il caso iracheno, è un paragrafo sul Kurdistan. Un paragrafo sul Kurdistan che si intitola Il problema del Kurdistan, problema iracheno e problema internazionale, il dovere della solidarietà internazionale. È un paragrafo da cui abbiamo pensato appunto di fare delle letture anche questa sera, e da cui abbiamo pensato di prendere spunto anche per aprire un po' un dibattito su quella che è stata la vicenda storica del Kurdistan, in questo caso in particolare del Kurdistan iracheno. Da alcune fonti orali che abbiamo raccolto negli anni qua a Firenze, per quanto ci riguarda come Affluenti, che abbiamo raccolto dopo la scomparsa di Hassan, sembra che Hassan sostenesse, avesse detto, diciamo, raccontato, sostenuto da alcuni suoi conoscenti qua a Firenze di avere origini curde, nonostante che sia nato nel sud dell'Iraq, però quando ho fatto notare questa cosa mi è stato detto i curdi sono ormai, insomma, in tutta Europa, in tutto il mondo, figurati se un iracheno di origine curda non poteva, diciamo, trovarsi appunto nel sud dell'Iraq. Hassan sosteneva di avere origini curde, da questo paragrafo della sua tesi si capisce, insomma, molto bene che la questione del Kurdistan iracheno era una questione che lo toccava profondamente e personalmente, in modo forte e probabilmente e forse anche appunto autobiografico. E è un paragrafo molto dettagliato in cui Hassan riporta proprio alcune testimonianze di giovani curdi dei primi anni 80, degli anni 80, ed è un paragrafo in cui Hassan racconta, diciamo così, spiega, insomma, fa vedere molto bene quella che è stata la vicenda del Kurdistan iracheno degli anni 80, a partire dalla guerra fra Iraq e Iran e fino ad arrivare a quello che poi è stato il genocidio dei curdi iracheni da parte del regime di Saddam, in particolare fra l'86 e l'89. E in questo paragrafo Hassan, secondo me, fa capire molto bene come si è potuti arrivare fino a quella vicenda storica, fino a la tragedia storica del genocidio, delle armi chimiche e quant'altro. Quindi direi, magari per iniziare a introdurre un Hassan Atiyah al-Nassar, che vi assicuro che io stesso, poi adesso magari ci dirà anche Marco quando inizieremo a leggere questi estratti della sua vicenda biografica, che io stesso, lavorando come curatore insieme ad Andrea Gazzoni a questa raccolta di opere complete, iniziamo ad introdurre un Hassan Atiyah al-Nassar che io stesso, vi assicuro, non sapevo assolutamente riconoscere, nel senso che è stata veramente una sorpresa per me per primo, che gli sono stato, diciamo, vicino come Marco, come altre persone qua a Firenze negli ultimi anni della sua vita, almeno per 7-8 anni. Vi assicuro che per me per primo scoprire questo Hassan, l'Hassan Atiyah al-Nassar che leggeremo questa sera, è stato veramente rendermi conto che io per anni non ho veramente capito, non mi sono veramente io stesso per primo reso conto di chi avevo accanto in quegli anni e con chi stavo camminando per strada qua a Firenze. E questo è come Hassan Atiyah al-Nassar si racconta, come racconta il suo esilio, la sua vicenda, la sua fuga dall'Iraq e il suo arrivo in Italia, nel capitolo appunto della letteratura dell'esilio, il caso iracheno, in cui che Hassan intitola Dall'esilio in patria all'esilio in Italia. In Iraq, prima della mia partenza, c'erano 4 quotidiani, 2 del governo e 2 indipendenti, un settimanale, 4 riviste mensili e un trimestrale. Fare parte del cenacolo degli scrittori mi rendeva estremamente felice. Ero convinto che la mia vita sarebbe stata tranquilla, magari piena di gloria. In realtà, ben presto, cominciarono i problemi. Dai miei articoli, dai miei racconti, si vedeva chiaramente che le mie idee erano ben poco simili a quelle professate dal regime e che comunque io non celebravo mai quest'ultimo. Anche per il resto della mia famiglia la vita non era facile. Cominciarono a perseguitare mio fratello, che aveva la fama di essere un predicatore, un trascinafolle, e io purtroppo sapevo benissimo che un giorno o l'altro lo avrebbero ucciso, come infatti poi è avvenuto. Ero riuscito a ottenere un lavoro in un ufficio pubblico, ma ormai vivevo in un vero e proprio clima di disperazione, di terrore. Basta un semplice sospetto in Iraq per essere imprigionato, torturato, ucciso. E io facevo molto chiaramente parte della lista dei sospettati. Ero spaventato. Vedevo troppo spesso persone nella mia stessa condizione scomparire senza lasciare traccia. Tutto quello che desideravo era poter vivere serenamente, ma non potevo per questo trasformarmi in un servo cantore della gloria di Saddam Hussein. Alcuni episodi drammatici, che in seguito mi hanno consentito di essere considerato un rifugiato politico, fecero sì che maturasse in me l'idea della fuga. Lavoravo in un ufficio pubblico. In quel periodo l'Iraq intratteneva rapporti amichevoli con la Siria e io chiesi un permesso lavorativo per poter fare un viaggio di 6 giorni in quella nazione. Il timbro per la Siria era lo stesso valido anche per altri paesi, tra i quali l'Italia. Salì sull'aereo con pochissime cose, sapendo che molto probabilmente non avrei mai più visto l'Iraq e che se fosse stato scoperto in qualche modo il mio tentativo di fuga, sarei sicuramente stato ucciso. Ce l'ho fatta. Dai primi anni 80 vivo in Italia. Mi rendo conto di aver raccontato la mia storia in modo molto sommario, ma è difficile per un uomo venire a patti con la propria memoria, soprattutto se per molti anni ha cercato disperatamente di dimenticare. La mia prima tappa italiana è stata Perugia, poi mi sono trasferito a Bologna e infine a Firenze, la città in cui mi sono fermato, la città che ho scelto per vivere. Ci è voluto molto per dare alla mia vita quella parvenza di normalità che in realtà essa non ha e non avrà mai. È difficile, ma non impossibile, adattarsi a vivere in un paese completamente diverso dal tuo. Le cose si complicano se non riesci ad avere un lavoro. Noi esuli abbiamo dovuto affrontare molteplici difficoltà. Al nostro arrivo nei paesi dai quali speravamo ospitalità, non sapevamo dove dormire, come mangiare. Spesso non conoscevamo neanche la lingua locale. Non potevamo esprimerci. Eravamo privati di tutto. Non ci sentivamo più in diritto di fare o di pretendere niente. Anche ammirare la natura era diventato amaro. Un mio compagno, il poeta di Alatief, vive a Roma in un'unica stanza fatiscente sotto alla quale passano i tubi delle fogne cittadine. Il rumore dell'acqua sporca che scorre e il cattivo odore non cessano mai. Io vivo in una minuscola soffitta dove, per mancanza di finestre, non entrano mai né sole né aria. Devo accendere la luce anche in pieno giorno, dato che l'unica apertura, di piccolissime dimensioni, si affaccia su di un corridoio non illuminato. Sono condizioni deleterie per l'organismo umano, tanto che per ben 3 volte sono stato costretto al ricovero ospedaliero. Viviamo in condizioni inumane, che però abbiamo accettato fin dall'inizio, perché anche il più squallido degli alloggi è una sicurezza se confrontato a quel labirinto spaventoso che è la notte italiana per uno straniero. Alle persone, fra virgolette, normali, sembrerà una cosa ridicola, eppure uno dei miei più grandi desideri è quello di poter vivere in una casa dove si possa respirare senza avere la sensazione di soffocare e dove possa entrare copiosa la luce solare. In estate ho spesso dormito nei giardini pubblici, perché se d'inverno nella mia stanza si gela, nella bella stagione il caldo è insopportabile. Questa situazione ha influito anche sull'organizzazione delle mie attività di studente e di intellettuale. Non potendo studiare nella mia abitazione, porto sempre con me uno zaino pieno fino all'inverosimile di libri, quaderni, penne, una sorta di studio ambulante, non troppo comodo. Agli inizi della mia avventura italiana, ho trascorso molto tempo aggirandomi per la città, da marciapiede a marciapiede, da osteria a osteria. Bevevo vino per scaldarmi, senza mai pensare a quella cosa che si chiama salute. Ho imparato a vivere insieme alla gente che non possiede niente. Agli sbandati, agli esuli come me. Ci somigliavamo tutti, vagabondi e poveri. Ci sentivamo intimi, vicini, senza differenza di razza o di cultura. Era il bar il nostro punto d'incontro. Il bar è l'unico amico di chi non ha niente. Queste persone sono stati i miei unici amici per tanto tempo. Ricordo ancora le notti in cui io leggevo poesie e loro mi parlavano del loro paese, della loro famiglia. La strada è l'unico rifugio che possa insegnare all'intellettuale a vivere la sfida. Da quando sono in Italia ho fatto decine di lavori. Ho vendemmiato, ho fatto il venditore ambulante, ho lavorato con i muratori, ho fatto l'accompagnatore di malati, handicappati, vecchi. Mi sono sempre proibito di pensare allo squallore della mia esistenza quotidiana. Non mi sono mai chiesto perché continuare a sopportare tutto questo. Non l'ho mai chiesto perché temevo che la risposta mi avrebbe impedito di continuare a condurre una vita onesta. L'esilio è un carcere. L'esilio è la metamorfosi dell'anima. L'esilio è un lento spegnersi. Il tempo scorre tra le dita, preoccupate, impegnate in qualcos'altro. Io continuo ad andare avanti, con molti lavori saltuari, e cerco di non smettere di scrivere. Scrivere la mia vita. Ho collaborato per molto tempo alla rivista Testimonianze, fondata da padre Ernesto Balducci, morto il 25 aprile 1992 in un incidente stradale, che fin dai miei primi giorni a Firenze mi è stato molto vicino e mi ha aiutato nei momenti più difficili. Le mie poesie e i miei racconti continuano ad apparire in numerose riviste. Io vado avanti, non mi arrendo, continuo a lottare, malgrado sia stato condannato a morte ben 5 volte dal regime come esule e pacifista. E questo era Hassan Atiha al-Nassar. Non so cosa ne pensi, Marco, prima di iniziare appunto un po' di letture delle poesie di Hassan, ma io questo Hassan veramente c'è tuttora fatico a rendermi conto che è quello che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo camminato accanto, con cui abbiamo iniziato anche il percorso, l'avventura di Affluenti in questi anni, no? Cioè, anche per noi forse veramente è quasi difficile credere, pensare e renderci conto di con chi abbiamo avuto a che fare e chi abbiamo avuto vicino in questi anni anche come affluenti. Sì e no, nel senso che io credo che con i poeti bisogna avere a che fare con la poesia dei poeti e provare ad entrare nella poesia di un poeta significa anche capire una grandezza che va oltre il mero testo, e quindi una grandezza umana. E una grandezza umana è una grandezza di una biografia sofferta. Ora, io ogni volta che mi capita, certamente per noi che abbiamo poi tra l'altro un'attitudine culturale, fra mille virgolette, al fatto poetico, e quindi abbiamo bisogno di biografie, abbiamo bisogno di sapere che ci sono dei fatti storici, abbiamo bisogno di sapere che si può contestualizzare facendo bella prova di sapere dov'è l'Iraq, chi è stato Saddam Hussein, quello che è successo al nostro carissimo amico purtroppo scomparso Hassan, è chiaramente ci dà delle coordinate e che ci aiutano. Però io ogni volta che mi sono avvicinato ai testi di Hassan, ed è per questo che vi consiglio di leggerlo, non perché siate voi specificatamente interessati alla situazione del Kurdistan o dell'Iraq o della poesia di Hassan, è perché questa poesia parla di un dolore. Ora, io lo so che questa è una parola brutta, bandita, il capitalismo lo bandisce, e c'è anche un motivo, perché non è il dolore di Hassan che questa poesia parla, e c'è, lo sentite? Lui in questo testo vi ha detto: questo è il mio retroterra, ma il suo non è il suo dolore, è il dolore di tutte le persone, non da ora, da sempre, e soprattutto di persone che non hanno le parole per dirlo, hanno subito un'oppressione, l'oppressione che spesso non è l'oppressione solo di un Saddam Hussein, è l'oppressione di un uomo sull'uomo, di una terra sull'uomo, di una disgrazia sulla disgrazia. Hassan, mettendo il dito sulla parola dolore, che non è, ripeto, il dolore suo, ma è il dolore dell'umanità offesa, prendo a prestito un'espressione di Adorno, ci racconta questo dolore, lo mette all'indice, ma non perché il suo sguardo è fatto di dolore. Il suo sguardo è fatto di amore. Ma Aragon diceva: non ci può essere amore felice se fuori di me c'è la guerra. E lui lo dice in un pezzo, lo dice, leggetelo, questo è bellissimo, un tratto bellissimo. E quel dolore che si fa dolore del mondo, è la sua impossibilità di parlare d'amore, ma da questi versi esce l'amore in tutti i modi, come un silenzio, che è il silenzio di quelle persone che trovate per strada, che non hanno le parole come me, che ho studiato, ho avuto la fortuna, i miei genitori si sono sacrificati, mi sono sacrificato anch'io, ho le parole per esprimere il dolore, no? Per dire parliamone e non stiamo zitti, perché se esiste un senso, no, di essere stati rivoluzionari, era quello di impedire che il dolore fosse dolore, ma che coloro che avevano subito per migliaia di anni il dolore diventassero parola, diventassero storia, protagonisti del loro destino. Ecco, Saddam Hussein è stato il carnefice di Hassan? No, siamo stati tutti carnefici di Hassan, certo. Nel senso che tutti coloro che hanno accettato che il silenzio rimanesse silenzio e che non diventasse dolore per diventare un giorno amore, hanno permesso a Hassan di essere un martire in questo senso. Scusatemi l'abuso di parole, ma a volte serve. Ed è anche il fallimento un po' di una nostra idea che abbiamo avuto. Perché, per esempio, voi avete notato che noi stiamo leggendo in italiano. Ci rendiamo conto che non è la lingua di Hassan, no? Quale grande sforzo per riuscire ad arrivare a dei testi in italiano che riescono a far sentire a me, lettore in italiano, sì, che ho studiato, bla bla bla bla, che ha un minimo di conferenze, scusate, di conoscenze di anche di che cos'è la matrice araba, di cos'è una lingua ipotattica, paratattica e bla bla bla bla, ma lui riesce a farmi sentire delle cose in una lingua che non è la sua. Noi ci siamo riempiti la bocca, spero non noi, ma sappiamo, no, di multiculturalismo. Ecco, finiamola. Le culture non vanno rispettate. Le culture devono interagire. Le lingue devono contaminarsi. Noi ci siamo limitati a un'idea di rispetto che non è rispetto, è distanza, è freddezza, è non conoscenza. Il multiculturalismo, che non a caso è propugnato dai sistemi di potere, vuole aggiungere come se fossero delle somme, ma non vuole far compenetrare le persone, le vuole mettere a distanza. Rispettare a volte è semplicemente una, io lo dico sempre, prendendo in giro i francesi, se non si può essere umani, almeno si sia educati. Ecco, ma io vorrei essere umano, non educato, non vorrei dare del voi, vorrei dare del tu alle persone. Ecco, Hassan è una persona, e l'ha detto, noi abbiamo deciso, se le ha detto, no? Immaginatevi la sua vita concreta, quante volte lui è stato lì, per dire, me ne torno in Iraq. Uso 4 formule retoriche, il potere glielo avrebbe consentito, 4 formule retoriche in cui si prende in giro Saddam Hussein per i 4 gatti che lo capiscono, mentre il popolo pensano che sia un panegirico di elogio. Immaginatevi il mondo arabo, no? Che ha della poesia, mette la poesia al centro, che quindi fa della retorica espressiva. Lui avrebbe potuto benissimo usare delle forme critiche criptiche. Però no, perché non era quella la sua sfida, era quella di stare nel dolore per farlo, metterlo al centro. Ecco perché Hassan ci parla e ci continua a parlare, perché sta continuamente in quell'incrocio in cui il dolore significa l'impossibilità di far coincidere un senso profondo di umanità, quella che abbiamo dentro di noi, con un senso profondo di umanità che è quella che ci fa essere tutti umani. E noi purtroppo, ed è passato, guardate ragazzi, ragazze e tutto, chiamate compagni e compagne, è passata questa idea folle, antinomica, per cui l'individuo e la società siano cose ostili, antinomiche appunto, per cui l'individuo deve combattere contro la società, oppure è fatto di una lotta fra individui. Ecco, queste sono le cose che Hassan, scegliendo, prendendo posizione, facendo la posizione nel grande sacrificio di una nuova lingua, di una transcultura, perché quello che lui ha generato non è una lingua italiana, è una translingua in italiano, che è una cosa diversa, che è la fusione di questa interferenza in qualcosa di nuovo, che è esattamente la sua dinamica, la sua scelta. Ogni parola è la sua presa di posizione, è quel dolore che ci farà guardare come orizzonte un amore silenzioso, ma che è il nostro scopo. Grazie, un applauso al nostro Marco che Hassan, a lui che Hassan l'ha conosciuto un po' dopo di me, ma in realtà non meno intensamente e profondamente di me, soprattutto per come entra, appunto, per come sei entrato in molte di quelle che sono le questioni importanti, no, fondamentali della sua vicenda biografica, ma anche e in particolare e soprattutto in particolare della sua poesia, no, anche quello che dicevi anche sulla scrittura in italiano di Hassan, che è una translingua, no, non è appunto una scrittura in italiano, ma è una scrittura, diciamo, in un trans italiano, no? Uno dei motivi per cui Hassan Atiyah al-Nassar è considerato uno dei poeti migranti, uno dei cosiddetti poeti, autori e poeti transnazionali fra i più importanti e significativi di questi ultimi anni, di questi ultimi decenni, c'è anche proprio il fatto che a partire dall'incontro fra il suo retroterra arabo medio orientale e la lingua italiana, Hassan Atiyah al-Nassar negli anni ha elaborato una scrittura in italiano che nessun italiano madrelingua sarebbe in grado di riprodurre. Cioè nessuno di noi che è nato in Italia, nessun madrelingua italiano sarebbe in grado di scrivere in italiano come scriveva Hassan Atiyah al-Nassar. Questi sono appunto alcuni dei contributi importanti, forse fondamentali anche, che questi autori migranti, questi poeti, questi scrittori transnazionali stanno portando appunto non soltanto alla cultura, alla letteratura, ma anche alla lingua che parliamo o che diciamo di parlare, insomma, in questo paese. E citavi anche parlavi, diciamo, fra virgolette, citavi anche il silenzio di Hassan, no? Quel silenzio che per il potere, che per quell'esilio e per quegli infiniti esili da cui Hassan è fuggito e in cui nel cui labirinto si è trovato, quel silenzio che non deve diventare dolore, no? Cioè che non deve esprimersi, manifestarsi appunto per il dolore, per la rottura, per la lacerazione dell'esilio, ma deve o dovrebbe appunto rimanere silenzio, no? C'è una poesia molto, molto bella di Hassan, che fra l'altro è la poesia che apre la sua seconda raccolta, Roghi sull'acqua babilonese, che è uscita qua a Firenze nel 2003, la prima edizione. Questa poesia di Hassan, che apre Roghi sull'acqua babilonese, si intitola proprio Silenzio, e chiamerei a leggerla la nostra Gabriella Beccarelli. Volevo aggiungere alle vostre bellissime parole che effettivamente la scrittura è estremamente potente, perché quello che lui ha letto è un pezzo di vita di Hassan e effettivamente mi ha dato un senso di immedesimazione incredibile. Ho pensato, pensa alla scrittura, quante cose può lasciare nel tempo, cioè al di là del tempo. Perché lui non c'è più, però io poi l'ho conosciuto una volta sola, loro lo conoscono da tanti anni, e ho avuto un'impressione di lui veramente molto bella, molto positiva, e sono contenta di averlo conosciuto. Ma adesso, quando tu hai letto questa parte, la prima parte, è come se l'avessi rincontrato, mi ha fatto un effetto un po' particolare. Quindi, silenzio. Verrà da me il silenzio che entra nelle vesti dei morti. L'istante era povero, abbandonato e ferito, e i nostri cieli stranieri. Fuggiremo alla ricerca della rivoluzione. Ha gridato il vento e i nostri ultimi giorni hanno urlato, feriti. Grazie Gabri, questa almeno per quel che mi riguarda è veramente forse una delle poesie più belle, almeno per me, di Hassan, e che si intitola appunto Silenzio, in cui scopriamo appunto l'Hassan esule, l'Hassan in fuga, l'Hassan ferito, ma anche l'Hassan combattivo, no? L'Hassan che, come lui stesso dice in quel paragrafo in quel capitolo autobiografico della letteratura dell'esilio, Il caso Iracheno, che va avanti, non si arrende, nonostante sia stato condannato a morte 5 volte dal regime o da i molti regimi con cui si è trovato ad avere a che fare come esule e pacifista, e conosciamo in qualche modo anche, scopriamo diciamo così, anche l'Hassan rivoluzionario, no? In qualche modo, che sappiamo Hassan Atiyah al-Nassar appunto fugge dall'Iraq molto probabilmente nel 1979 anche in quanto oppositore politico al regime di Saddam Hussein, giovane, giovanissimo poeta, giovanissimo scrittore della nascente scena letteraria irachena degli anni 70, che oltre che con varie testate e riviste irachene dell'epoca collaborava, aveva iniziato a collaborare anche con alcuni ambienti della sinistra irachena e anche con alcune riviste della sinistra irachena che poi furono appunto censurate e in buona parte anche esiliate da Saddam. E visto che abbiamo letto anche di come Hassan si è trovato da profugo, da esule, nei suoi primi giorni, nei suoi primi mesi e nei suoi primi anni qua in Italia, in particolare a Firenze, dell'idea e anche proprio dell'immagine, no? Della visione che l'Italia e chi nasce appunto in Italia ha e aveva fin da quegli anni, fin dagli anni 80, di chi arrivava da altri paesi, no? E come inevitabilmente la poesia è quella translingua che Hassan è stato prima ancora che aver parlato o aver scritto, inevitabilmente crea e creasse dei cortocircuiti, no? Creasse diciamo una visione, diciamo un'impossibilità di conciliazione, appunto non un multiculturalismo in senso appunto sistemico, ma una necessità oltre che una possibilità di contaminazione che era o risultava essere diciamo indigesta, per non dire insomma scomoda o molto scomoda, appunto per quei linguaggi e per quegli immaginari dominanti da cui Hassan si è trovato ad essere esiliato una e infinite volte. C'è una poesia un po' più lunga di quella che abbiamo appena letto, ma che secondo me è altrettanto bella e importante, di Hassan, che è la poesia con cui Hassan apre la sua ultima raccolta, la sua ultima opera, che è Il labirinto, uscita qua a Firenze in versione autoprodotta nel 2013, poi ripubblicata da Matiscolo Edizioni nel 2015 e infine pubblicata in nuova edizione riveduta e ampliata, anche con alcuni testi inediti, dopo la scomparsa di Hassan, appunto per la collana di Affluenti con Edizioni Ensemble. Questa poesia in cui Hassan racconta proprio come l'uomo occidentale, diciamo così, che in questa poesia lui identifica in modo simbolico con l'espressione figlio di Adamo, si riferisce a questo si riferisce spesso in molti passaggi del testo a questo figlio di Adamo come immagine simbolica, come immagine poetica e simbolica dell'uomo occidentale e della visione che appunto questo figlio di Adamo, questo uomo occidentale diciamo così, spesso ha di chi arriva appunto da altri paesi, da altri paesi, da altri continenti, in questo caso, nel caso di Hassan, appunto dal Medio Oriente. Questa poesia che si intitola Terra nella Terra, ce la legge la nostra Margherita Lo Consolo. Volevo aggiungere che sono molto contenta di questa raccolta, di tutta la produzione poetica di Hassan, perché se lo merita. Si merita un riconoscimento che, insomma, che non ha, che ha avuto magari in parte solo con poche persone, però ecco, questa è un livello un pochino più... Quindi, piccolissima parentesi, è proprio quello che ci ha detto per primo lo stesso Haidari, direttore di collana, della collana di Erranze per Ensemble, massimo poeta albanese vivente, nonché probabilmente insomma uno dei poeti fra i più importanti che ci sono attualmente in attività a livello europeo. È uno scandalo il fatto, una cosa vergognosa, che un autore, un poeta come Hassan Atiyah al-Nassar sia rimasto diciamo negli infiniti esili anche appunto poetici, oltre che di vita e di esistenza, in cui è rimasto, in cui è stato costretto praticamente per tutta la sua vita. E quindi questa prima raccolta di opere complete nasce anche proprio dalla volontà forte da parte di Haidari di dare a questo autore, ad Hassan Atiyah al-Nassar, non so se dire uno spazio, ma comunque una possibilità, ecco, una possibilità di esistere e di far arrivare la sua voce, come probabilmente insomma è anche giusto che arrivi e che possa arrivare. Esatto, perché ne abbiamo diritto. ne avrebbe diritto insomma anche lui, ma anche noi, certo, ecco. Ne abbiamo bisogno, direi, insomma, bisogno anche, prima ancora che diritto. Terra nella terra. Avevi tagliato i fili dell'acqua lontano dalla nostra tenda. Eravamo stanchi. Non abbiamo mangiato niente. Non abbiamo visto da lontano una mela. Era tua. Ma perché ci hai messo nel fuoco del peccato? Ci conosci? Ma perché ha inchiodato i nostri corpi come trofei degli sconfitti o dei vincitori? Hai appeso le fanciulle tra i maschi e le femmine sugli alberi in fiore, mele fresche. Perché, figlio di Adamo, nella guerra galleggiavi come gli specchi, come calici volanti, vuoti? In quel momento mio padre cercava gli occhiali, quelli di suo padre. Dalla finestra agli ultimi corpi cercava pietre delle vecchiette. Erano cieche, vedove con camicie nere e bianche. Oh, figlio di Adamo, il nemico sta pregando d'inverno la tempesta o la spiaggia. Aveva donato del pane, un sasso, agli amici che non hanno dormito sulla sabbia. Violento eri durante la guerra, figlio di Adamo. Eri rivestito di nebbia e imbracciavi un mitra. Tu indossavi gli abiti delle donne uccise. Non hai pensato al guanciale, non hai pensato alla nudità delle ragazze, non hai pensato alla tazza di tè. Hanno le essenze della tua terra. Perché non porti una volta la mappa del nord e una volta la mappa del sud? Tu non comprendi la mappa del tuo cammino. La vita di un contadino senza terra. Mai c'era un lottatore contro i rami senza coltello. Era un beduino o un mulo senza fardello. Perché ci odi, figlio di Adamo? Non abbiamo occupato una casa di vetro, ma amiamo il paese che ci ha amato e il paese che ci ha odiato. Le donne sono spada del tradimento, ma loro hanno castelli tratti dalle nostre costole, castelli d'aria. Abiterai anche tu, figlio di Adamo? Perché ci odia? Cammina verso la nostra tenda. Abbiamo verdura fresca e pane, pane di grano. Possiamo amare la donna, quella rimasta sveglia per me o per te. Non abbiamo prigionieri o assassini. Sono ospiti. Cantano la luce della luna smarrita, le scie dei pesci che dormono nelle acque, tra le canne e le alghe. Siamo lieti quando vieni. Non siamo sulla terra cieca. Perché ci uccidi, figlio di Adamo? Non torturarci nel tuo regno vasto. Bevi con noi il tuo caffè, il liquido rosso. Ti diremo, figlio di Adamo, siamo nati poveri, orfani, e poi ci hai mandato nel campo di battaglia. Non attaccare le nostre teste, tutte le nostre parole. I nostri corpi ti somigliano e ci somigliano. Avevi sbagliato, figlio di Adamo. Mio padre dice: taglia il coltello prima che il coltello ti tagli. Nella notte cieca ho visto generali versare cadaveri nei calici amari con il ghiaccio. Cosa dobbiamo fare, figlio di Adamo? Pensa alla nostra memoria. Siamo stati costretti a cantare dietro il palazzo di vetro, il palazzo dei tuoi uomini, sulla soglia degli abissi. Tornano le spose. Sono belle, figlio di Adamo. Un'altra volta tu hai sbagliato nel silenzio. Non abbiamo detto siamo schiavi della notte. Io adoro le donne, la poesia, l'acqua, severo con l'uomo severo nel mio corpo. Possono distruggerlo le ali delle farfalle. Ma come possono entrare il mare, il fuoco, campi di soldati e militari? Non inchiodare le nostre teste, figlio di Adamo. Vieni al pozzo d'acqua, dove beviamo con le mani. Non abbiamo dei prigionieri, ma solo ospiti. Amano gemiti, pianti, canti. Tu sei straniero con noi? Perché ci odi? Io sono forestiero da te. Vieni, entra nella nostra tenda. C'è la verdura, una pagnotta calda di orzo, acqua di pozzo. La beviamo con le mani. Non abbiamo prigionieri. Sono fratelli, ospiti nella stanchezza o nella rabbia o anche nella febbre. Per loro abbiamo fatto una casa nel deserto, un campo, una luna. Il dio notturno non ci ha guardato. Eravamo in autunno, un'arancia morta, legno, silenzio. Abbiamo allontanato il coltello, figlio di Adamo. Figlio di Adamo, abbiamo voluto seppellire gli uccisi. Sono come noi. Sono venuti dall'Oceano Pacifico. Erano stranieri. Si lavano la notte con le lacrime prima del sorgere del sole. Noi siamo venuti con sogni somiglianti a lenzuoli freddi o come una lacrima prima di cadere dall'occhio. Noi siamo venuti nudi per combattere gli assassini e la povertà. Perché ci odi, figlio di Adamo? Nel mio cuore c'è il paese che ho amato e il paese che ho odiato. Tu hai sgarrato o hai sbagliato? Ha sofferto tanto quest'anima, tanto. Dove una volta aveva il riposo. Sii ricco in clemenza sulla terra con noi, prima di torturarci nell'ultimo giorno. Scusa, perdonami, perché io vivo una volta, muoio una volta. Chiedo clemenza, figlio di Adamo. Io sono io, tu no. Posso dire? Secondo me questo testo è molto rilevante per capire cosa volevamo dire noi con Translingua, no? Prendiamo un esempio. Qual è la figura retorica preeminente di un poeta? La metafora, no? Quindi lui, quando usa la parola tenda, parlando appunto di una collana che si chiama Erranze, parla della condizione, e tra l'altro ne parla anche nei testi, se leggete vedrete che parlerà proprio dell'errabondicità del poeta. Però la parola tenda, pensiamoci, va inserita in un altro contesto che in linguistica si chiama il prototipo. Vi faccio un esempio. Se un italiano deve descrivere, no? La parola uccello, che è una parola eponima, no? L'uccello può essere il passero, è l'iponimo, cioè è la parte, il passero fa parte dell'uccello, che è la parte più grande. Però cosa descriverà l'italiano? Quello che vede di più, cioè un passerotto. Questo non significa che uno che vive nel deserto o per esempio nella giungla, vedendo diverse specie di uccello, descriva come esempio dell'uccello il passerotto. Ecco, la translingua è quella di portare un immaginario diverso in una lingua che non si aspetterebbe quell'immaginario. La tenda, effettivamente, un vagabondo italico, diciamo negli anni 70, quelli se lo può aspettare, non è esattamente, se noi facessimo un'inchiesta su cos'è il prototipo della parola, della metafora errabonda in un poeta, non useremmo quella. Altro esempio di neolingua, traslingua, chiamatela, quello dell'esempio del figlio di Adamo. Nessun poeta italiano, nato nella cultura italiana, userebbe quello come metafora. Nell'insieme, quello che si ha è un'altra lingua, è un'altra cosa, è una sfida, è un andare oltre proprio il nostro immaginario, ed è questo l'intercultura. Cioè uscire dall'habitus. Per me è sempre più dura avere un habitus, no? Quindi almeno mi aiuta questo allargarmi, mi aiuta ad avere la logica di andare oltre, no? E devo andare oltre d'Italia, almeno vado. Ecco, questa è la questione dell'importanza di. Ora scusate se sono entrato in tecnicismi, però aiuta. Aiuta a volte a capire perché un testo poetico ha una forza. Questo testo ha una forza perché forse. Ma poi Ungaretti, vedete la questione della cultura? Ungaretti è nato nel deserto, è nato a Alessandria, ma stava proprio ai margini. Sua mamma avevano un negozio, un panificio, poi il padre morì, quindi lo gestiva la mamma, ci stava spesso anche lui, proprio nel deserto, quindi lui cresceva nel deserto, è cresciuto nel deserto. Ma già quando arriva a Parigi, lui aveva un grandissimo amico lì, che era un beduino. Beduino, no, scusate, neanche un beduino, era un nomade libanese, principe, che però, al contrario di Ungaretti, che ha una maîtrise parfaite du français e dell'italiano, aveva una maîtrise du français parfaite, ma era pur sempre un arabo, e si suicida, perché l'impatto con la Parigi cosmopolita è uno shock. E la neolingua di Ungaretti, perché Ungaretti è il meno italiano nella sua lingua italiana dell'inizio, si deve confrontare con la acculturazione, cioè lui deve prendersi la cultura italiana. A un certo punto è tutto un incontro, lo troverete col barocco, con le cose, proprio perché non c'era la possibilità che si coniugasse questa cosa qui, cioè un immaginario diverso in una lingua, perché il lettore viene spiazzato, no? Da tutte queste. Invece noi dobbiamo abituarci a vedere la bellezza di questo testo, perché è proprio, vedete, questo ci aiuta, no? È una grandezza, cioè lui è riuscito a creare qualcosa, ed è questo la grandezza di un poeta, perché sennò qui lo celebriamo perché lui è stato esiliato, perché ha sofferto. No, qui celebriamo un grande poeta. E quando un poeta è grande ci parlerà sempre, al di là di come lui ha vissuto. Ha voluto vivere così, perché si può anche vivere facendo i compromessi, no? E lui ha scelto di non farli. Quindi non lo rimpiangiamo tanto per come ha deciso di vivere, ma perché questo gli ha consentito di scrivere queste cose qui. E chiudo. Io direi che sì, facciamo magari altro due o tre letture, sì. Poi sì, andiamo magari anche sulla parte sul Kurdistan, poi finale. Fra l'altro, e grazie Marco appunto anche per questo excursus nella translingua appunto di Hassan, e c'è una postfazione fra l'altro a questa raccolta di opere complete di Alice Loda, che è una giovanissima ormai docente all'Università di Sydney, che ha pubblicato un libro recentemente che è tratto dalla sua tesi di dottorato, un libro che si intitola per l'appunto The Translingual Verse, il verso translingue, il verso appunto più che multilingue. Alice stesso lo definisce il verso translingue, no? Usa proprio questa parola, nella quale tesi di dottorato, diventata poi un libro, Alice Loda si è occupata appunto in particolare della poesia di Ghesim Haidari, direttore della collana di Erranze, di Barbara Pumosel, che è una poetessa di origine austriaca che vive in Italia, fra l'altro qua vicino Firenze da molti anni, e appunto di Hassan Atiyah al-Nassar. In questo libro, insomma, tratto dalla sua tesi di dottorato, Alice dice proprio quello che poi ribadisce anche nella postfazione a questa raccolta di opere complete appena uscita con Erranze, ovvero un po' quello che dicevi tu, Marco, no? Cioè questa capacità straordinaria della poesia di Hassan di creare mondi, no? Immaginari oltre le lingue, al di là delle lingue stesse, no? Cioè di portare gli immaginari, la lingua e quindi la possibilità di creare mondi, di creare realtà. Poeta nel suo senso etimologico, chi è il poeta? Cos'è poeta? Cos'è poesia? Poeta è colui che crea o cerca di creare mondi tramite il linguaggio, no? Radice della poiesis, che è appunto il fare inteso come fare creativo, no? Come possibilità appunto di creazione tramite il linguaggio. In questo senso Hassan è stato ed è tuttora, per quello che ci ha lasciato, un grandissimo poeta, perché è veramente riuscito in questo, no? Cioè a creare tramite la sua lingua, tramite la sua scrittura, dei mondi, degli immaginari, quindi dei mondi possibili oltre i mondi possibili, no? Oltre i mondi dati e descritti e in qualche modo pronunciati dalla lingua stessa, no? In questo caso dalle lingue con cui lui ha scritto e con cui lui ha vissuto, ovvero l'arabo e l'italiano. E quindi appunto, oltre a consigliare appunto a tutti quanti anche di approfondire anche la poesia di Hassan tramite la lettura anche della postfazione di Alice Loda a questa raccolta di opere complete, abbiamo detto che Hassan è uno dei giovanissimi scrittori che a fine anni 70 decide, diciamo, di fuggire, di non allinearsi, appunto, di non adattarsi, di non scendere a compromessi con un regime o con uno dei molti regimi con cui poi si troverà ad avere a che fare nella sua vita, e è parte, diciamo, di una generazione di giovani e giovanissimi scrittori, poeti, artisti, intellettuali iracheni che fra fine anni 70 e inizio anni 80 appunto fuggono o si esiliano, a volte proprio si autoesiliano dal regime di Saddam o comunque dallo stato iracheno dell'epoca, per approdare in altri paesi e in altri continenti. C'è una poesia che racconta un po' appunto questa generazione, diciamo così, in qualche modo di artisti, intellettuali, giovani iracheni esuli, che è contenuta appunto nella seconda raccolta di Hassan, Roghi sull'acqua babilonese, e si intitola Aspettando il compagno che non vedrò più, Gabriella Becherelli. Aspettando il compagno che non vedrò più. Ti ho veduto. Si allontanano i piccoli alberi che ti hanno conosciuti. Si allontanano le osterie in cui a lungo dormimmo. Ce ne siamo andati, anima di uno stormo d'uccelli. Tamburi sono stati suonati per noi. Non c'è casa che possa essere nostra al di là del fiume. Non è rimasto albero sul quale incidere il ricordo, né taverna per cantare la gioia segreta che ci palpita dentro. Ti ho visto costruire una casa di carta. Ho visto la lucerna che diffondeva luce sotto il ponte abbandonato. Ti ho visto seguire i brevi passi del cane che incontrammo legato ad un albero, prigioniero. La febbre ti accompagna, annidata negli zaini dei militari, e ingoia i nostri petti prima della testa. C'era vento sul cappello del negro. Le sirene, ti ricordi, erano dietro la tua schiena e la terra non ti offriva le sue erbe. Chi spegnerà le lucciole nella casa oltre il fiume? Chi scriverà a me o a te queste righe in ritardo? Ma ti vedo ora nelle nuvole. Partirai per una terra ignota. Si innalzerà un'altra stella da questo sentiero. Lune in calici di cristallo. Le nostre lettere nel rogo. Io vorrei vederti un'altra volta in quella strada, case di canne in attesa del vento polare, fuoco sotto l'albero in attesa di primavera, in attesa di un amico che non vedrò più. Grazie, grazie Gabriella. E abbiamo detto come appunto Hassan è stato translingue, no? Più che multilingue, ovvero ha avuto questa capacità straordinaria tramite la sua poesia di creare una lingua in qualche modo che sia, che fosse un ponte, che fosse al di là, oltre al di là, sia l'arabo in qualche modo che l'italiano, e quindi di creare mondi, no? Possibili mondi, possibili immaginari, possibili linguaggi che suggerissero appunto mondi possibili, che in qualche modo costruissero e suscitassero i immaginari e mondi possibili oltre quelli che in qualche modo il linguaggio o i linguaggi dominanti, diciamo così, o codificati ci suggeriscono, a volte ci impongono come, come realtà stessa, no? In un certo senso, che cos'è la realtà se non linguaggio, no? Che cos'è la realtà se non ciò che si dice di essa, no? Cioè, cos'è la realtà se non ciò che i linguaggi di ogni epoca, di ogni presente fanno di questa realtà stessa, no? E di come i linguaggi costruiscano gli immaginari e il modo in cui percepiamo e pronunciamo, in cui possiamo pronunciare la realtà tramite il linguaggio stesso, no? Tramite quello che chiamiamo, diciamo, senso comune. In questo senso per me ha avuto, appunto, scusate il gioco di parole, in questo senso ha avuto senso, ovvero scrivere a un certo punto, sostenere anche nella prefazione a questa raccolta di opere complete, che Hassan Atiyah al-Nassar ha vissuto uno e infiniti esili, non soltanto perché è stato esiliato tanto dal regime iracheno quanto da i vari altri regimi con cui si è trovato ad avere a che fare da un punto di vista sociale, politico, culturale in Italia e nello specifico nella nostra, diciamo, fra virgolette, città di Firenze. Ma l'esilio per Hassan Atiyah al-Nassar, in qualche modo io credo che vada oltre l'esilio fisico, l'esilio biografico. La vicenda biografica dell'esilio va oltre la vicenda personale stessa e la vicenda appunto biografica e autobiografica stessa. Nella poesia, nella poetica di Hassan Atiyah al-Nassar, in virtù anche appunto di questa sua scrittura translingue, fra lingue, fra immaginari e quindi fra mondi diversi, l'esilio io credo che per Hassan diventi in qualche modo, nella sua poesia, nella sua poetica, diventa esso stesso allegoria di una condizione umana, ovvero diventa allegoria di un infinito esilio, che è l'esilio dell'uomo contemporaneo, che esule prima di tutto da se stesso, ovvero esule prima di tutto dal linguaggio stesso, no? Cioè esule prima di tutto da ciò che in qualche modo più lo caratterizza come essere umano, no? Nella sua poiesis, nella sua capacità, possibilità di creare mondi come essere umano, ma di cui appunto in qualche modo la modernità, la contemporaneità ha espropriato l'essere umano stesso, no? Quindi in questo senso per Hassan, per la poesia, per la poetica di Hassan, siamo tutti in qualche modo esuli, perché siamo tutti in qualche modo esuli, siamo stati tutti in qualche modo esiliati dalla parola e dal linguaggio stesso. In questo caso, appunto, in questo senso, mi viene in mente anche Ungaretti, no? E il porto sepolto, no? La parola che in qualche modo è stata seppellita, no? E la possibilità stessa della parola poetica, che è stata in qualche modo seppellita da i meccanismi, le strutture, le sovrastrutture della cosiddetta modernità. C'è una poesia, secondo me, in particolare, che dà il senso di questo esilio, di questo esilio dalla parola, di questo esilio dal linguaggio, che secondo io che io credo che per Hassan caratterizzi non soltanto lui in quanto esule, ma l'essere umano, l'uomo nella contemporaneità, quindi questa allegoria, diciamo, di una condizione umana nella contemporaneità. Questa poesia è la poesia che apre la prima antologia di Affluenti, ovvero Separazione totale. Volevo dire che sono molto affezionata a questa poesia che Hassan mi regalò quando era un giorno passavo da Borgo Albizzi tornando verso Piazza Beccaria e mi sono fermata come al solito alla panchina all'Arco di San Piero dove Hassan in genere insomma sostava. E l'ha tirata fuori da questa borsa che portava sempre con sé piena di tantissime cose e mi disse: guarda, questa l'ho scritta e te la regalo, l'ho scritta stanotte. E dopo ero con Roberto, mio marito, e tornati a casa l'abbiamo letta e io ho iniziato un po' a preoccuparmi. Perché chiaramente nella sua vicenda stava passando un periodo piuttosto, insomma, duro. E, insomma, che poi dopo ha avuto il suo epilogo. Comunque, separazione totale. Sparirà il corpo dal suo desiderio. Sparirà dalla sua smania. Fuggirà il mare dalla sua spiaggia, fuggirà dal suo arenile, svanirà la palma dal suo tronco, svanirà dalle sue radici. Scompariranno i ritornati dal paradiso, l'ubriaco fuggirà dal suo ultimo bicchiere, la parola fuggirà dal suo libro sacro, fuggirà dal suo Corano. L'amore era ingannato e l'innamorato sparirà, fuggirà l'assassino perché non ha una vittima. Gli amanti spariranno perché non c'era amore, scompariranno gli alberi dal loro giardino, le rovine si dissolveranno perché non avranno più la terra. E il poeta, senza parole, fuggirà. Senza femminilità le donne spariranno. Dentro questi corpi c'è un cuore che se sarà isolato morirà. Grazie Margherita. Mi ricordo anch'io, non sei stata l'unica a cui Hassan ha dato quella poesia, mi ricordo che evidentemente doveva essere appunto un periodo un po' particolare per lui, anche un po' difficile, insomma, complesso, fra i vari, insomma, periodi difficili e complessi che ha avuto, però mi ricordo che quel testo, insomma, lo offriva, lo faceva leggere, insomma, chiedeva un parere, come si dice, insomma, un parere di lettura a vari, insomma, a suoi amici, insomma, e conoscenti. E fra l'altro appunto la poesia Separazione totale, che apre la prima antologia di Affluenti, uscita nel 2016, leggeremo poi in chiusura, proprio in chiusura, un'altra poesia, diciamo, molto forte da questo punto di vista, che appunto è La solitudine, che invece chiude la raccolta poetica di Hassan nella prima antologia di Affluenti, in cui Hassan proprio, diciamo, come dire, ce la canta e ce la suona, nel senso che racconta senza parafrasare, insomma, ecco, come era suo solito fare, la sua condizione appunto di vita e anche di indigenza a Firenze in più di 30 anni di esilio in questo paese, in questa città. Ma come detto, la poesia e le poesie di Hassan Atiyah al-Nassar raccontano, fra virgolette, o meglio, creano, trasformano quelli che sono i nostri stessi luoghi, no? Le nostre stesse strade, le nostre stesse piazze, le strade, le piazze della città in cui Hassan ha vissuto per più di 30 anni esule, ovvero Firenze. Perché appunto io credo che Hassan, come forse un po' stesso Marco ci diceva, non racconta dei luoghi, non racconta delle cose, ma crea dei luoghi e crea delle vicende, cioè non racconta dei mondi, ma crea in qualche modo dei mondi raccontandoli e trasforma quei mondi, quella realtà e quelle vicende stesse che racconta tramite la sua poesia, tramite la sua capacità appunto di poeta di fare del linguaggio della poesia stessa una possibilità di creare immaginari, di creare mondi possibili e quindi di, come dire, stravolgere, no, anche il modo in cui si percepisce, in cui si vede e in cui si racconta la realtà stessa con cui quotidianamente abbiamo a che fare. Hassan abitava, almeno negli ultimi anni della sua vita, in via Villa Magna, proprio davanti al CPA, dove c'è anche attualmente il CPA, e c'è una poesia che io non so se lui l'ha scritta quando stava già lì in via Villa Magna, però io tutte le volte che la leggo mi viene in mente, penso, insomma, ripenso sempre a quella sua casa al quarto piano di via Villa Magna, che per arrivarci doveva fare tipo 5 rampe di scale. Vi assicuro che per Hassan 5 rampe di scale non era una cosa facile da fare tutti i giorni. Questa poesia è dedicata a una signora Paola, se non sbaglio, si intitola Dopo le ore 9:20, Gabriella Beccarelli. Questa è una poesia un po' particolare, secondo me, perché l'inizio si ricongiunge alla fine, e questo è una cosa come se fosse in due tempi, no? C'è questo aspetto qui. Si pensa anche a terra nella terra, no? L'immagine di figlio di Adamo, sì, che apre e chiude, no? Ritorno. Dopo le ore 9:20, scende dall'ultimo piano la signora Paola. Dopo le ore 9:20. Da questa mattina lei occupa una seggiola vicino alla finestra. Lacrimano i suoi occhi mentre guarda verso la gabbia degli uccelli impauriti, verso il pavimento della stanza rovesciata, verso il giornale strappato, verso la piantina che sogna con me, verso le pareti che mi assediano, verso di me, e dice: è guerra, guerra, guerra nel cielo più alto, guerra nella terra, guerra dell'acqua, guerra del sangue, guerra dei ragazzi perfetti, guerra dei ragazzi sbagliati, guerra dei ragazzi sciolti, guerra delle lettere scritte nel profondo della notte, guerra delle zone fredde, guerra della sabbia che bussa alla porta di ferro, guerra di truppe animose, guerra di soldati corrosi e senza volto, che occupano il fiume, occupano il male, occupano il bicchiere d'acqua. Guerra! Guerra della testa che lancia tori veloci verso le nostre tende bianche. Guerra agli uccellini impauriti e alla piccola pianta. Dopo le ore 9:20 la signora Paola si scusa. Guerra! Guerra nei sentieri. La strada che porta al bosco si riannoda. Guerra agli uccelli d'acqua che hanno paura di emigrare e respirano il fumo che grava sulle loro piume bianche. Essi nutrono l'aria. La guerra desidera un'altra guerra. La guerra galleggia sopra l'acqua della guerra. guerra di ruffiani e soldati effeminati, guerra del sangue che pulsa nelle vene, guerra sul cappello della ragazzina, guerra dei comandanti schiavi. Dopo le ore 9:20 scende dall'ultimo piano la signora Paola. Dopo le ore 9:20 da questa mattina lei occupa una seggiola vicino alla finestra. Grazie, grazie Gabriella. E andando, diciamo, verso chiusura, le poesie di Hassan sono belle, sono anche impegnative, nel senso che poi entrarci dentro non è semplice, no? Stare sul pezzo non è semplice, però la poesia è anche un po' questo, no? La poesia non deve un po' confondere le idee, no? Insomma, deve un po' metterci anche un po' in difficoltà, fra virgolette, no? E provare appunto a suscitarci e anche farci rompere un po' il guscio, no? In cui siamo abituati quotidianamente a stare nei linguaggi stessi con cui quotidianamente abbiamo a che fare, con cui quotidianamente raccontiamo o ci viene raccontata appunto la cosiddetta realtà. Quindi magari facciamo altre due o tre letture e poi anche, non so, possiamo andare anche a mangiare, a bere qualcosa, e se poi dopo vogliamo anche leggere un po' appunto il paragrafo di Hassan sul Kurdistan e fare anche un po' di dibattito su questo contributo, insomma, importante. Io credo che Hassan ha dato in questo suo lavoro, la letteratura dell'esilio, il caso iracheno, a la vicenda e anche proprio la conoscenza, no? La ricerca su il Kurdistan, in particolare sul Kurdistan iracheno e su la lotta, le lotte, le persecuzioni subite dal popolo curdo negli anni e in particolare in questi ultimi decenni. Fra l'altro, insomma, è una questione anche molto attuale, visto quello che anche in questi giorni stessi accade e continua ad accadere fra il Rojava e appunto le aree geopolitiche a sud della Turchia e a nord della Siria. Però magari prima di vedere, insomma, di ascoltare come un poeta esulo iracheno raccontava o faceva raccontare una vicenda come quella del Kurdistan iracheno, quando quell'area geopolitica non era forse ancora così percepita in modo così importante, diciamo, forse anche prioritario a livello internazionale e internazionalista, direi di proseguire, di restare ancora un po' più vicini prima di addentrarci verso il Medio Oriente e di restare appunto nella nostra fra virgolette Firenze, che Hassan ha attraversato e di cui ha raccontato fra virgolette luoghi, persone, strade, ma anche, ad esempio, ce l'ha detto lui stesso, che il bar e l'enoteca, diciamo così, erano uno dei luoghi in cui gli esuli, i profughi e gli sbandati, fra virgolette, come lui li definiva, spesso si incontravano. C'è una poesia nella prima antologia di Affluenti che si intitola Vicolo, in cui per un bel po' di tempo, Marco, abbiamo pensato, siamo stati convinti in realtà che quel vinaino, quell'enoteca a cui Hassan si riferisce in quella poesia fosse quella di Borgo La Croce, dove lui spesso si sedeva appunto sui tavolini di marmo di quell'enoteca di Borgo La Croce. In realtà pare che il vinaino a cui Hassan fa riferimento, che racconta in questa poesia, sia niente meno, ci passatelo, se vi capita di passare da via Sant'Antonino in San Lorenzo, cioè quell'enoteca storica, non mi ricordo come si chiama, insomma, l'enoteca storica di San Lorenzo, a cui molto probabilmente è dedicata questa... Zanobini, esatto, a cui molto, che era un altro dei luoghi di pellegrinaggio di Hassan, appunto, a Firenze, è vero, Zanobini, insomma, erano dei luoghi di pellegrinaggio, fra virgolette, di Hassan a Firenze, e questa poesia, scritta molto probabilmente niente meno che da Zanobini in via Sant'Antonino, qua tre strade più avanti, Vicolo, nella lettura di Margherita Lo Consolo. Ok, vabbè. Va bene, allora poi dopo me la dai lì, è la solitudine. Sì. Vicolo. Una taverna in un vicolo. Il magro Alessio sta scrivendo nomi e numeri nuovi su carta pallida, antica. passano poeti e forestieri. C'era vetro alle porte. C'è vetro opaco adesso sui tavolini di marmo, pieno di vino rosso, bianco. Il siciliano Bruno nella taverna beve birra nel fumo delle sue sigarette accattate e canta le poesie con la sua voce stonata. La taverna che era nel vicolo rimane con il magro Alessio, con la carta antica, e il siciliano continua a cantare. Io sono solo con i vetri vuoti, dalla porta al bicchiere vuoto, la taverna che era nel vicolo, nella quale mi sono seduto da solo per lungo tempo. Sono cadute nell'estate di luglio le piogge, sono caduti uccelli dal cielo iracheno, sui vetri, sui tavolini di marmo, sulla pioggia, sull'estate di luglio. C'era una volta il vino bianco e rosso. È rimasto nel vetro, galleggiando ogni tanto nella taverna del vicolo. Il vetro della porta è rimasto sui tavolini di marmo. Noi siamo rimasti nel vetro. Alessio il magro continua a scrivere i nostri nomi sulla carta morta, antica, senza aggiungere altro. O forse siamo rimasti sotto il marmo lucido di vino bianco, rosso. I nostri alberi, i nostri giardini, la terra, le candele, la casa, il bicchiere e la nostra anima, tutto nel buio. Per favore, non lasciare i nostri calici vuoti, perché le fanciulle vogliono lanciarsi nel vuoto e volare sopra i nostri muri oscuri, sul buio dei nostri giardini, illuminati dal tuo calice rosso. Grazie a Margherita, e Hassan ce l'ha appunto un po' raccontato anche in quel capitolo autobiografico dalla letteratura dell'esilio il caso iracheno, la sua diciamo difficile e situazione di vita e spesso purtroppo anche di indigenza. Ce l'ha raccontata appunto anche in quel paragrafo autobiografico dalla letteratura dell'esilio il caso iracheno. Ciao Enzo. La sua difficile, insomma, spesso insomma difficile situazione e condizione di vita, a volte purtroppo anche di indigenza qua a Firenze, e anche appunto gli infiniti esili che ha vissuto e con cui si è trovato con cui si è trovato ad avere a che fare qua in questa città. Questo testo è, penso, insomma, emblematico da questo punto di vista. È il testo che chiude la parte, diciamo, la sezione di Hassan Atiyah al-Nassar nella prima antologia di Affluenti, ed è La solitudine. È la solitudine. Da solo, davanti un fiume freddo. Da solo, dove vanno le donne, una dopo l'altra, e lui resta da solo nel buio dove non vede se la luce è vicina, da solo all'ombra degli alberi, da solo con la tristezza e da solo con la gioia, da solo con la guerra che arriva, da solo con Radio 3, da solo con il freddo disumano dell'inverno, da solo contro la zanzara che nel buio conosce la strada che porta a lui, da solo sull'autobus 23, da solo, vivo

Sicuramente anche qualche, una copia o qualche copia per Polpe.